falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai avete capito perfettamente qual è il calcio che ci piace. È quel calcio romantico, poetico, nel quale in qualche modo l'attore diventa una parte di un'opera d'arte, ed è quel calcio che secondo me può interessare anche al pubblico femminile, perché ogni donna che cambia stazione quando io parlo di calcio la vedo come una sconfitta personale. Noi vogliamo parlare per esempio di giocatori che lasciano un segno, che hanno lasciato un segno in una epoca storica precisa e che magari sono stati di esempio anche per le generazioni successive. Il nostro protagonista nasce il 2 aprile del 1927 in un sobborgo di Budapest, che in quel momento era ancora la capitale del Regno di Ungheria. È un bambino, figlio di una famiglia di origini tedesche. Il padre si chiama Ferenc e il bambino viene chiamato come il padre, Ferenc, cognome Puskas, un logo, un marchio che entrerà nella leggenda del calcio. E lui, Ferenc Puskas, ha solo 10 anni quando, dopo aver giocato in mezzo ai prati a piedi nudi come miliardi di bambini, comincia a giocare nelle giovanili del Kispest. L'allenatore è il padre e ci sono molti altri ragazzini che diventeranno dei campioni di un'Ungheria che sfiorò il miracolo nel corso degli anni 50. Uno dei giocatori che giocava con Puskas, per esempio, un altro che si chiamava Bossik e che fece anche lui una grande carriera. Ferenc giocava solo con il piede sinistro, ma era velocissimo. Nessuno riusciva a stargli dietro. E poi si portava sempre dietro il pallone. Sembrava fosse incollato al piede. Kispest è il nome del sobborgo dove è nato e cresciuto Ferenc Puskas. Poi cade il Regno d'Ungheria, poi c'è la guerra mondiale. Alla fine della guerra nasce la Repubblica Popolare di Ungheria, regime comunista, bisogna cambiare i nomi a tutto, così il Kispest diventa la squadra del Ministero della Difesa. Prende il nome di Honved, che vuol dire difensore della patria. Di fatto i calciatori diventano dei militari e ovviamente viene data grande importanza ai risultati, perché il calcio diventa uno degli strumenti di propaganda principali per i regimi comunisti. Il calcio è lo sport. Una squadra vincente è l'esempio di uno Stato vincente. Peraltro l'Ungheria era uscita devastata dalla Seconda Guerra Mondiale, perché il re si era schierato con l'asse, aveva scelto la parte sbagliata, 2/3 dei territori erano stati suddivisi tra gli Stati confinanti. Insomma, l'Ungheria deve giocare le sue carte per riacquistare credibilità a livello internazionale. E intanto Puskas nella Honved sta segnando un numero impressionante di gol. Ne fa 50 nella stagione 47-48. Grazie a Puskas e a tanti altri campioni, la Honved vince 3 campionati di fila all'inizio degli anni 50. Per Puskas si aprono le porte della nazionale. E oltre a Puskas nella nazionale arrivano altri giocatori che passeranno alla storia, e la maggior parte di loro arrivano proprio dall'Honved. Abbiamo già citato Bossik, ma c'è anche Loran Budai, Ideguti, quello che per la prima volta impersonerà il ruolo del centravanti arretrato. Eh sì, adesso la spiego anche in maniera pro pubblico femminile. Il centravanti sarebbe quello che sta davanti a tutti, che deve fare gol, diciamo così. Bene, la Honved crea una nuova figurazione, cioè il centravanti arretra, e oggi lo chiamano falso 9, arretra dando spazio ai centrocampisti e portando via lo stopper dalla difesa, cioè quello che marca il centravanti va dietro a lui, e intanto i centrocampisti arrivano e segnano. L'Ungheria partecipa alle Olimpiadi di Helsinki, tra l'altro ha anche in porta un certo Grosic, che è un altro leggendario. Siamo nel 52, 7 gol alla Turchia, 6 alla Svezia, e il 2 agosto davanti a 60.000 spettatori nello stadio olimpico di Helsinki batte la Jugoslavia. Nella Jugoslavia gioca Vujadin Boskov. L'Ungheria vince la sua medaglia d'oro. Beh, la vittoria alle Olimpiadi è un traguardo importante per l'orgoglio nazionale, però per quanto riguarda il calcio, in quegli anni le Olimpiadi non erano la competizione definitiva, quella che decretava il più forte di tutti, perché molte squadre non potevano schierare i professionisti, quindi le nazionali più importanti non c'erano virtualmente. Addirittura gli inglesi per anni hanno evitato di partecipare a competizioni ritenendosi superiori agli altri in quanto inventori del calcio. Però gli inglesi concedono guanti di sfida alle più forti, così la nazionale ungherese viene invitata a Wembley per misurarsi con una squadra vera. Insomma, questo è il match cardine per stabilire chi è la più forte di tutte. There's the outside left Seymour, right over on the right wing. Oh, a lovely goal! A lovely goal, molto sportivamente il telecronista inglese dice questo del gol del 3-1. Siamo nel 53, 25 novembre, a Wembley gli spettatori sono 105.000 e dopo un minuto di partita si è già messa male perché i deguti segna il primo gol e gli inglesi quel giorno vivono uno dei loro peggiori incubi calcistici, perché l'Ungheria, che da quel momento verrà soprannominata squadra d'oro perché legittimerà la sua vittoria olimpica, vince 6-3, 3 gol di Deguti, 2 di Puskas e 1 di Bosic, 35 tiri a 5 per l'Ungheria, una umiliazione. Nel 54 si gioca la rivincita, questa volta a Budapest, e gli inglesi si sono preparati, hanno fatto tesoro, o quantomeno credono di aver fatto tesoro dell'umiliazione subita. Bene, il risultato finale è 7-1 per l'Ungheria, che diventa la principale candidata alla vittoria dei campionati del mondo del 54. Il falco e il gabbiano. Estate 1954, si giocano i mondiali di calcio, siamo in Svizzera e l'Ungheria è la grande favorita, la chiamano Aranik Sapat, cioè la squadra d'oro. E nel suo girone c'è la Corea, 9 gol, ma c'è anche la Germania, e il risultato della partita di qualificazione tra Ungheria e Germania è 8-3, la Germania di Rahn, di Fritz Walter. Bene, in quella partita Puskas subisce molti falli, esce anche malconcio dal campo, e questa è una situazione che si ripercuoterà sulle altre partite, ma comunque l'Ungheria prosegue il suo cammino, arriva in finale, e in finale c'è di nuovo la Germania. Gut herausgelaufen, schlechtes Abspiel von Liebrich soeben und Ungarn Sturm, Kosic müsste schießen, Nachschuss Puskas Sturm! L'Ungheria si porta sul 2-0, Puskas e Zibor. Però citiamo ancora la frase di Lineker, Gary Lineker: il calcio è un gioco che si gioca 11 contro 11 e poi alla fine vince la Germania. Perché la Germania è sempre molto tosta, coriacea, ma questa volta, insomma, non è solo quello. E la Germania vince 3-2, Puskas si vede annullare il pareggio per un fuorigioco che probabilmente non c'è, viene chiamato il miracolo di Berna, ma su quella partita se ne sono dette tante. Molti giocatori tedeschi vengono ricoverati per ittero dopo la partita, e insomma è uno di quei mondiali palesemente in odore di doping. Quella Germania, che aveva perso 8-3 nel girone di qualificazione, anche un po' aiutata da un arbitraggio clemente, batte l'Ungheria e formalmente termina il momento di gloria di quella nazionale, della nazionale ungherese. Beh, abbiamo detto che la nazionale ungherese è stato lo strumento di propaganda per il governo comunista ungherese. Puskas a tutti gli effetti è un militare, arriverà al grado di colonnello anche se non ha mai imbracciato un fucile in vita sua. Questo però è un modo per scoraggiare delle defezioni da parte dei giocatori, che ovviamente viaggiando per il mondo vedono che cos'è il mondo al di là della cortina di ferro comunista, e magari sono anche allettati da una vita di normale, magari con un bel guadagno. Alcuni giocatori lo hanno fatto ancora prima della guerra. Un altro mito, Laszlo Kubala, è scappato in Spagna e gioca nel Barcellona. Dopo la guerra qualcuno ci ha provato, è stato giustiziato perché magari è stato fermato alla frontiera. Puskas è attaccato alla sua terra, ha deciso di rimanere. From Budapest, city of blood and bravery, tragedy and hope, come the first pictures of the battle which has shaken the world and of its aftermath. Budapest, che viene definita City of Blood, eh sì, perché nell'ottobre del 56, lo sapete, arrivano i carri armati russi a bloccare il rinnovamento. È una rivoluzione sanguinosa, ci sono molte vittime e 250.000 ungheresi scappano all'estero. Puskás in quei giorni è in tournée in Europa con la Honved. Arrivano notizie terribili dall'Ungheria, lui decide di non tornare e rimane in Italia. È un momento terribile per la sua carriera, oltre che per il suo paese, perché la federazione ungherese gli vieta il trasferimento. Così lui si ritrova sulla riviera Ligure, vicino a Bordighera, pensate, è lì e non ha la possibilità di giocare. E peraltro lì, da quelle parti, si mangia anche molto bene. Il risultato è che ingrassa parecchio. In Spagna però c'è un uomo che è stato calciatore, adesso è il presidente di una grande squadra, è il presidente del Real Madrid, si chiama Santiago Bernabéu, gli hanno dedicato lo stadio, e è appassionato al calcio della squadra ungherese, sa che c'è Puskás fermo ad ingrassare sulla Riviera Ligure, lo chiama a Madrid, e Puskás ha messo su 15 kg, eppure Bernabéu crede ancora in quel sinistro magico, in quel ragazzo, se ne frega della federazione ungherese, della FIFA, e lo ingaggia. Insomma, Puskás si trova all'attacco del Real Madrid. A fianco c'è un altro grande giocatore, l'argentino Alfredo Di Stefano. Questo è l'audio di uno dei 7 gol con cui il Real Madrid liquida l'Eintracht Francoforte, vincendo anche la Coppa dei Campioni del 1960, la quinta consecutiva. 7-3, 3 gol di Di Stefano, 4 di Puskás, che peraltro segnerà 12 gol in quell'edizione. Bene, Bernabéu ha vinto la sua scommessa, Puskás ha riacquistato la forma, è rinato a nuova vita e si è integrato perfettamente in questo Dream Team che è stato quel Real Madrid di Blancos, e insieme a Di Stefano, insieme a Gento, a Santa Maria, a Real, poi ad Amancio, insomma a Coppa prima, dei giocatori fantastici, perché 5 Coppe dei Campioni di seguito, insomma, non sono uno scherzo. Al final de esa misma temporada los campeones de Europa juegan a 2 partidos contra los campeones de América, el Peñarol de Montevideo, el Campeonato Mundial de Clubs. E il palmarès personale di Puskás è impressionante: 6 campionati spagnoli, 3 coppe dei campioni, una coppa di Spagna, la coppa intercontinentale contro gli uruguaiani del Peñarol. Lui segna 180 gol in 156 partite, ha il doppio passaporto, diventa quindi anche spagnolo, giocherà anche 4 partite nella nazionale spagnola, riesce a fare fuggire la sua famiglia dall'Ungheria. Insomma, è un momento magico per un ragazzino cresciuto tra i prati della periferia di Budapest, scampato ai carri armati, e che in questo momento si sta consacrando come uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Ferenc Puskás, è il calciatore ungherese che cresce nella Honved e contribuisce a quella grande squadra d'oro, la nazionale ungherese che sfiora la vittoria nel campionato del mondo del 54 e che vince le Olimpiadi 2 anni prima e che poi viene fermata dalla rivoluzione del 1956. E qui Puskás inizia una seconda vita e arriva a Madrid, al Real Madrid, alla corte di Santiago Bernabéu, e vince tutto in un Real Madrid stellare assieme a Di Stefano e ad altri grandissimi campioni. Arrivano gli anni 60 e arrivano altre squadre. Il Benfica vince nel 61 e nel 62 la Coppa dei Campioni. Poi arriva il Milan che a Wembley batte lo stesso Benfica nel 63. Ma poi arriva una squadra destinata a fare epoca. Uno squadrone che nel 1964 regola proprio il Real Madrid, nel quale giocava Ferenc Puskás, già 37enne, al Prater di Vienna 3-1, e due dei tre gol dell'Inter, uno lo fa Milani, gli altri due gol li fa un signore che è al telefono con me, Sandro Mazzola. Buongiorno Sandro. Buongiorno, ciao. Ho detto tutto giusto? E non hai sbagliato niente. Mazzola Milani, Fello Mazzola, questo è il tabellino di quella finale. Ma come tu sai, ti do del tu perché ci siamo già conosciuti e intervistati. E poi insomma ho preso tanto di quel freddo per venirti a vedere allo stadio che me lo merito. Dunque, stiamo raccontando di Puskas che appunto, lo dicevo prima, lui ha 37 anni, forse chiude la sua carriera con quella partita della quale c'è veramente un cambio della guardia. L'Inter diventa la grande Inter da quella serata. Tu avevi 22 anni, giusto? È vero, giusto. Eri, vabbè che a quell'età si cresceva prima, insomma era la generazione del dopoguerra, però a 22 anni tu eri un bambino che si trova di fronte a un signore che aveva giocato con tuo padre anche. Sì, e difatti lui me lo venne a dire se ne è partita. Io volevo andare a farmi dare la maglia di Stefano, perché io non avevo la televisione a casa da bambino, però c'era un'osteria sotto casa che se bevevi un bicchiere di spuma Johnny potevi vedere la partita. E allora io, se non c'erano gli italiani non c'era televisione, ma la finale si andava giù a vederla e c'era sempre il Real Madrid in finale con Alfredo Di Stefano. Certo. Che poi a me ricordava un po' mio papà per quello che mi hanno raccontato. Esatto, no? Sì. E quindi a quel punto io cercavo Di Stefano e mi viene incontro Puskas e mi dice in spagnolo: io ho giocato contro tuo padre, sei degno di lui, tieni la mia maglia. Wow! Era la cosa più grande che mi poteva succedere. Sì. Senti, cosa ricordi di quella serata? Perché voi veramente giocavate, vabbè, avevate qualche elemento esperto, perché se non sbaglio tipo Suarez era più grandicello di voi, ma voi eravate veramente dei ragazzini al contatto con delle superstar. E avete vinto voi, ma questo era l'approccio iniziale, cioè quando li avete visti entrare? Ce la facevamo sotto. Il bello che per entrare in campo dagli spogliatoi si passava sotto le tribune per uscire poi in campo, e non c'era l'illuminazione, c'erano delle lampadine lungo tutto il percorso, per cui era un chiaro scuro, no? E a un certo punto io ho visto, e loro erano già lì che aspettavano, noi arriviamo e io vedo le maglie del Real, poi vedo Di Stefano, che per me era il più grande, che era quasi da chiedergli l'autografo. Ci stava. E quindi era un'emozione veramente grandissima. Infatti i primi 10 minuti non l'ho mai presa la palla, perché guardavo loro e dicevo: Cribbio, ma è vero, sto giocando contro il Real. E chi è stato di quell'Inter lì il primo che ha dato la scossa, che ha detto: oh ragazzi, sono il primo? Era il grande capitano Armando Picchi. Era un grandissimo. Si era accorto che eravamo tutti un po' in coma, e lui di solito lui faceva il libero, allora non usciva mai dall'area nostra. Sì. Invece dopo 10 minuti circa, 10-12 minuti si era accorto che eravamo in coma, e allora venne a metà campo. Io un giorno me lo vedo e mi veniva da chiedergli: ma cosa fai qua? Però lui era il capitano, io ero giovane, non potevo. Certo. Non lo guardo, gli fa: allora vogliamo cominciare a giocare la partita, vai avanti e fai gol. Era un grande. Tu ti ricordi chi era l'allenatore di quel Real Madrid? Perché in quegli anni lì, a parte Herrera, Rocco e pochi altri, non ci si ricorda degli allenatori. Vedi, è una squadra talmente leggendaria nei giocatori che l'allenatore non è passato alla storia. Però invece il vostro era un signore piuttosto particolare. Herrera, cosa vi diceva? Cioè anche lui subiva un po' il fascino, lui arrivava da Barcellona, quindi era un po' anche un derby per lui. Sì, perché poi lui ci raccontò che lui il Real l'aveva sempre battuto, invece non era vero. Ma lui era così. Prima dell'allenamento si faceva la passeggiata intorno al campo, lui davanti e noi sempre dietro, in pullman lui davanti e tutti gli altri dietro, e lui a uno ci chiamava e ci raccontava, sai, allora non c'era tanta televisione, quindi non è che li conoscevi bene gli avversari, certo. E lui andava anche a vederli all'estero, no? E quindi ci raccontava com'era l'avversario. Allora, se lui pensava che noi snobbassimo la partita faceva diventare grandissimi gli avversari. In questo caso invece li faceva diventare scarsi, perché aveva paura che, certo, che noi subivamo il fascino, certo, del, certo, del grande Real. Certo, certo. Adesso vorrei parlare un attimo del centravanti, perché quando uno dice la grande Inter, tutti dicono Sarti, Burnis, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchio, Tagni in prima, Jair Mazzola, poi qualcuno dice Domenghini, qualcuno Milani, qualcuno però Suarez Corso. Cioè in realtà di quell'Inter lì sono rimasti 10 nomi con il centravanti che cambia, perché c'è stato Domenghini, c'è stato prima Milani, c'è stato Peyro in Coppa. Peyro in Coppa giocava Peyro, il campionato giocava Milani. Esatto, esatto. Poi insomma ce ne sono stati altri, Cappellini, tantissimi altri, però e il Real Madrid, che invece aveva una formazione tipo a 11, però il centravanti non ce l'aveva, cioè Puskas in realtà giocava, arretrava un pochino, l'hanno inventato loro quello che oggi tutti chiamano il falso 9. Sì, è vero, è vero. E beh, ma loro avevano Alfredo Di Stefano che non potevi marcarlo, perché lui veniva indietro, andava avanti, era dappertutto. Mi ricordo che quando il nostro mago Elenio preparò la partita, a un certo punto disse: Tagnin, per te è facile devi marcare. E gli raccontò tutte le caratteristiche di questo, e alla fine della riunione Tagnin era un po' stralunato, no? Certo. Fu Suarez che aveva già fatto delle finali, ma non ti preoccupare, tanto è una partita questa, Bene Sandro, senti, sei stato gentilissimo e ancora complimenti per quel 3-1 che ha proiettato l'Inter in vetta al mondo. Grazie Sandro Mazzola. Grazie, grazie a te, ciao. Nel 66 Puskas abbandona il calcio giocato, comincia una carriera da allenatore altalenante, intanto lunghissima, dura fino al 93, allena in Spagna, negli Stati Uniti, in Grecia, in Arabia, in Australia, in Sud America, è un nomade del calcio, cambia 14 squadre in 26 anni e i risultati naturalmente non sono paragonabili a quelli che ha ottenuto da giocatore, tranne che in un singolo caso. Nel 1970 il Panathinaikos vince il campionato greco, va in Coppa dei Campioni e comincia a passare turni su turni contro ogni pronostico. Si libera anche dell'Everton, la seconda squadra di Liverpool, e poi arriva una semifinale particolare, è quasi un derby, contro la Stella Rossa di Belgrado. A Belgrado finisce 4-1. Bene, c'è un altro colpo d'ala di Puskas che porta i suoi ragazzi a vincere 3-0 nella partita di ritorno, tutta la Grecia è in finale. Ferenc Puskas looks as if he has managed the runners up. Twice he's played in a runners up side and it's all over. It is all over. A svegliare il Panathinaikos ci pensa l'Ajax dell'immenso Johan Cruyff, 2-0, e i greci perdono la finale, ma Puskas diventa comunque un eroe nazionale, perché nessun altro allenatore era riuscito prima a portare una squadra greca in finale di Coppa dei Campioni. Nel 1993, quando il comunismo non c'è più, Puskas torna in Ungheria, quello che era stato il ragazzino Osi, come si dice in ungherese, per i veterani dell'Honved, quello che era stato il canonsito Pancio, il Sicle, perché teneva la palla appiccicata al piede come un Sicles in Spagna, quello che era stato il boss in Grecia, finalmente è tornato a casa. Ma lì a aspettarlo non ci sono i vecchi nemici e neanche i vecchi amici, c'è un nemico nuovo, feroce, subdolo, si chiama Alzheimer. Puskas comincia a dimenticare i suoi gol, i suoi tiri, il pallone attaccato ai piedi, lentamente la sua mente si estranea dal mondo che l'ha considerato un dio, soprattutto in Ungheria, in Spagna e in Grecia. E il 17 novembre 2006 una carrozza militare trainata da quattro cavalli neri entra nello stadio della Honved intitolato proprio a Ferenc Puskas, e la carrozza trasporta la bara del piccolo Osi, il campione che aveva giocato a piedi nudi sui prati e che ha perso la sua ultima partita, portato via a quasi 80 anni da una polmonite, ma con i suoi ricordi che erano già volati via da tempo. Ferenc Puskas, un eroe per una nazione, uno che ha saputo interpretare con poesia e grinta il gioco del calcio, uno che ha fatto tanti colpi d'ala in tutta Europa. E noi vi aspettiamo e vi chiediamo di segnalare al falcoelgabbiano@radio24.it se conoscete storie che meritano di essere raccontate. E poi potete interagire con me sul sito di Radio 24 oppure sui miei social, sui nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. May God bless and keep you always. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.